La politica alla prova. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato la fine del finanziamento pubblico dei partiti come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. È un passo importante, l'avevamo promesso e abbiamo mantenuto questa promessa. Passiamo oggi a un sistema che è un sistema di contributi volontari da parte dei cittadini con un'incentivazione fiscale. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e dalla redazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Abbiamo sentito il premier Enrico Letta sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Subito il numero per i vostri sms 349-238-6666. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Stop quindi al finanziamento pubblico, detrazioni solo per chi ha uno statuto, in 3 anni abolizione graduale dei rimborsi, ma ci saranno gratis sedi, bollette telefoniche e spazi TV. Letta si augura l'approvazione in tempi rapidi del provvedimento, ma intanto il Movimento 5 Stelle non accetta questo provvedimento. Grillo dice che ci saranno dai 5 Stelle proteste clamorose e tra le altre cose si dice proprio che questa è una legge truffa da parte del Movimento 5 Stelle. Noi poco prima di questa dichiarazione abbiamo sentito un deputato 5 Stelle, Luca Frusone. Beh, in realtà naturalmente senza il Movimento 5 Stelle penso non saremmo mai arrivati a questo punto, perché effettivamente senza il fiato sul collo del Movimento 5 Stelle difficilmente avrebbero rinunciato ai rimborsi elettorali, ma in realtà questa è una scelta, una decisione che andava presa 20 anni fa. Questa è solamente una decisione con un ritardo di 20 anni, perché appunto già nel 93 gli italiani avevano detto che i rimborsi ai partiti non dovevano esistere. E poi è un lavarsi le mani su questa vicenda, perché appunto non serve una legge per rifiutare i rimborsi elettorali, basta non prenderli come abbiamo fatto noi, basta non fare richiesta per avere i rimborsi elettorali. Si potranno fare contribuzioni eccetera, però ci deve essere uno statuto, no? È sembrata una norma che vi impone poi anche a voi del Movimento 5 Stelle di darvi uno statuto. Beh, in questo caso, se ci sarà una contribuzione dove anche esterna, ben venga, anche perché già abbiamo visto che ci sono contribuzioni ai partiti o alle singole persone, come per esempio nelle fondazioni, e abbiamo visto che lo stesso Letta con la sua fondazione riceveva soldi da società di slot machine e molte altre cose. Quindi su questo deve essere fatta assolutamente chiarezza, anche perché la gente deve sapere chi è che contribuisce. Quindi voi che voterete sì a questo disegno di legge? Questo dobbiamo deciderlo in assemblea. Senta, a proposito di assemblea, è vero che ci sono state delle discussioni per questi 10 deputati chiamati da Beppe Grillo, autorizzati ad andare in TV? Beh, si è parlato di questa cosa, ma in realtà non ci sono state chissà quali discussioni. Si è parlato semplicemente di come sarebbero andati, di dove dovevano andare e via dicendo, quindi sempre sulle modalità alla fine, in un certo senso. E questa era Luca Frusone del Movimento 5 Stelle. Un radioascoltatore ci scrive: basta, ormai fate parlare solo il Movimento 5 Stelle, Vincenzo, però poi ci dicono che, a me soprattutto, dicono che io sono anti-grillina, non ci si capisce più nulla. Comunque, molti dei vostri sms concordano con Grillo, dice in effetti sicuramente si tirano fuori i soldi da un'altra parte, non ci crediamo, è una presa in giro. Un bel passo di Letta, ma io andrei oltre, perché non aboliamo addirittura i partiti? Ma Massimo di San Gimignano, perché secondo me i partiti sono la base della democrazia, anche i movimenti, però abolirli vuol dire una dittatura, non mi sembra un buon consiglio. Vincenzo. E quindi il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa per questo disegno di legge presentato oggi al Consiglio dei Ministri. Di Pietro, anche lui ogni tanto interviene sulla politica e parla: la mazzetta diventa legale. È d'accordo invece sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, almeno nella versione barata da Palazzo Chigi, il Popolo della Libertà. Silvio Berlusconi intanto rimanda la riforma della legge elettorale, per il Cavaliere ci sono altre priorità. Su questi temi, quindi abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, legge elettorale, ma anche sulle ultime di Grillo, abbiamo ascoltato l'ex ministro Gianfranco Rotondi. Ascoltiamo. Credo che su questa materia ci sia tanta confusione. Vedo che della spending review annunciata l'unica conseguenza sono i disoccupati dei partiti che, flettendo i rimborsi, mettono per strada la gente. Fin qui non mi pare un gran risultato. Ecco, in base alla sua esperienza politica e parlamentare, c'è un aspetto positivo comunque del finanziamento pubblico ai partiti? Senta, tutti diciamo guardiamo all'Europa, viva l'Europa, che bella l'Europa, ma noi tra i paesi europei siamo quello che ha il minor costo della politica. Quindi non vedo nella società italiana in origine una emergenza da costo eccessivo della politica. Un altro tema che sembrava questa legislatura dovesse prendere di petto, invece la sta prendendo un po' più con le molle, la legge elettorale. Oggi emergono anche delle perplessità da parte di Silvio Berlusconi, dice le priorità del paese sono altre, secondo lei? Tutti dicevano anni addietro che le preferenze erano un elemento di corruzione, si è fatto addirittura un referendum per abolirle. Ora sento dire che belle le preferenze, si sceglievano i candidati, poi fu fatto il Mattarellum, poi abolito perché non funzionava e sostituito da questa legge. Quindi non c'è una legge perfetta e soprattutto mi sembra che la politica italiana sia troppo soggetta alle mode in fatto di legge elettorale. Perché secondo lei Grillo quasi quotidianamente brucia poi dei simboli che aveva preso per il proprio movimento, prima la Gabbanelli, adesso Rodotà? Ma questo bisognerebbe chiederlo a lui. Io penso che Grillo ogni giorno che passa si confronta con la durezza della politica, che non è riempire un blog, ma avere a che fare con queste aule che sembrano confortevoli, con questi soffici divani rossi, ma quando ti siedi ti accorgi che dentro c'hanno gli artigli. E questo era Gianfranco Rotondi per il PDL. Intanto i vostri sms, ce n'è uno molto divertente: mai milioni di sovvenzioni ai partiti di questa legislatura, Rigoletto, perché non li ridai indietro? Beh, insomma, sempre citare questa bellissima opera di Verdi, io direi va bene così, questo radioascoltatore. E tra le altre cose ce n'è invece uno molto critico, che parla di sgravi diretti all'asilo, Vincenzo, insomma uno un po' sostanzioso. Assolutamente, va nello specifico sulle rette dell'asilo nido: 5.400 euro l'anno possono detrarre il 19%, massimo 600 euro, mentre se do i soldi ai partiti scarico la metà senza limiti. Che schifo, scrive il nostro ascoltatore. E poi dice: cosa dice Rotondi? Ma un ex DC, faccia il piacere, Alf da Vicenza. Intanto, altro tema all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è l'eco bonus, previsti sgravi fiscali per chi rinnova la propria abitazione. Attenzione, attenzione. Abbiamo chiesto al Ministro dei Rapporti per il Parlamento, Dario Franceschini, se con queste misure finalmente si aiuterà un po' l'economia a ripartire. Sentiamo Franceschini. In un momento di crisi, aiutare il comparto dell'edilizia è un modo per fare ripartire l'economia. Si aiutano contemporaneamente tutto il sistema delle piccole e medie imprese e si aiutano le famiglie che vogliono fare lavori nelle proprie abitazioni. Con una grande novità: oltre alla proroga degli incentivi del 50% per chi vuole ristrutturarsi la casa, aumentano le detrazioni dal 55% al 65% per la prima volta per chi fa nella propria abitazione interventi di efficientamento energetico, e quindi anche una spinta verso interventi di innovazione che contemporaneamente faranno lavorare e dare un po' di fiato all'economia. Quindi insomma l'Italia, che da sempre viene criticata per non essere poi un paese così attento anche all'ecologia e un paese che comunque non ha molte risorse naturali, si dà una rimodernata. È una misura che va in quella direzione. Invece sul finanziamento dei partiti è una mossa anche per frenare un po' l'onda del grillismo, oppure una cosa che secondo lei andava fatta? Ma è uno degli impegni che ha preso il governo al momento dell'insediamento col discorso del Presidente del Consiglio. Era stato preparato nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, nei tempi che avevamo deciso di rispettare si approva un disegno di legge che abolisce il finanziamento pubblico e introduce un meccanismo di contribuzione volontaria dei cittadini. Quindi è una mina disinnescata. Adesso il provvedimento viene in Parlamento, noi lo sosterremo, ma sarà il Parlamento a decidere in che tempi approvarlo, noi speriamo il prima possibile. E il taglio al finanziamento pubblico ai partiti, secondo qualcuno, potrebbe influire proprio sulla capacità di spesa degli stessi partiti. Ricordiamo, il PD ha annunciato 180 persone in cassa integrazione ed un nostro ascoltatore ci scrive: dipendenti dei partiti, io sono 6 mesi che sono in cassa e non ho ancora visto un soldo. Elisabetta. Insomma, comunque tutti i nostri radioascoltatori sono convinti che questa è una mossa giusta, grillini e non grillini, quindi vuol dire che il governo una volta ha fatto bene, e poi vediamo che cosa succederà in Parlamento e tutti i tecnicismi di legge. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.